Il pastore e l'armento da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Oddio, non passa dì che la mascella del lupo fra le mille non mi rapisca qualche pecorella. Erano mille, ahimè, non son più mille, e ancora m'ha rapito quel rabbioso il Ricciolin, un pecorin grazioso. Ricciolin che per il prato mi seguia come un cagnolo, Ricciolin che con le buone fino al polo ben mi avrebbe accompagnato, Ricciolin che la canzone conoscea del suo padrone e seguiva lieto il suono della piva. Ah, terribile destino, dove sei, buon Ricciolino? Così Taddeo con funebre lamento piangea celebrando la memoria di Ricciolin, la gioia dell'armento di poema degnissimo e di storia. Quindi il gregge adunò capri e montoni e tutti fino agli ultimi agnelletti e disse loro di camminar più stretti se volevano salvarsi dagli unghioni. Le pecore promisero in parola di popolo di star dentro il confine, strette, serrate, per non far la fine che fece quell'onesta bestiola. E dicevano: il tuo destino, Ricciolino, noi sapremo vendicar e l'ingorda faccia lor da castigar. Lieto Taddeo delle promesse crede che sia cose di fede, ma quando un'altra notte ancor sbucò di mezzo all'aer cupo la mala bestia, l'armento scappò e l'ombra era d'un lupo. Fine della favola Il pastore e l'armento. Fine del libro nono. Questa registrazione è di dominio pubblico.